begins. Each day claims a life, but a half dozen lives. Buonasera, è iniziato Zardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì dalle 20 circa alle 21.30. Questa era la sigla Behind Enemy Lines dei era la sigla Retribution dei Behind Enemy Lines. E adesso andiamo ad ascoltarci un pezzo della Fraction, che è una band di Parigi. Ascoltiamo il primo brano tratto dal disco omonimo, che è uscito nel 98. We'll be right back. Buonasera, benvenuti e benvenute a tutti e a tutte le zardiniane e i zardiniani in ascolto anche da parte mia per questa puntata di giovedì 3 agosto 2023. Il sommario per questa puntata di Zardins Magnetics prevede di sviluppare il tema della militarizzazione della società a partire da un opuscolo che è stato così diffuso da qualche tempo, e poi ancora un approfondimento un po' più così metodologico, teorico, vedremo, sull'idolo della razionalità. Prima di partire con questi, con questo programma così, con questa ricetta che abbiamo previsto per stasera, volevo fare un paio di aggiornamenti sull'attualità della settimana, diciamo, su qualche situazione repressiva particolare che siamo venuti a conoscenza. In particolare partiamo a bomba con un fatto inconsueto, insomma, ma inedito da queste, in questa zona, da queste parti da cui trasmettiamo, cioè dall'angolo in alto a destra della cartina dello stivale, ovvero il ritrovamento di una microspia nell'automobile di alcuni compagni di Trieste. Allora, e vennero a metterci le spie in auto, il comunicato della Buriana del 2 agosto 23. Sabato mattina una nostra compagna è stata svegliata dai vicini perché qualcuno le aveva rotto il vetro dell'auto. Un furto strano. CD masterizzati, l'adattatore del GPL, un bicchiere, una borsina regalo con erbe dell'orto e un sambuco fatto in casa contro la repressione, calza proprio a pennello. Vedi sotto l'etichetta. Ogni città e paese e qualche vicino aveva infatti visto quattro uomini con fare discreto e indisturbato entrare e uscire da quell'auto la notte prima alle 23:30. Subito dopo un rumore di vetri rotti, uno entrava dalla parte del passeggero e trabiccolava sporgendosi fino al lato dell'autista, gli altri tre stavano sotto il lampione, tanto incuranti dei passanti che sembrava fosse la loro auto. Chissà se loro stessi o dei colleghi hanno poi lasciato il bigliettino alla questura trovato sul tergicristalli che suggeriva di presentarsi per denunciare il fatto. Nel rimediare al danno, pulendo la macchina, un pezzo sotto il volante, vicino ai pedali, era fuori posto, e seguendo un filo si è trovata la microspia, e c'è la documentazione fotografica. Poi, ma perché è stata messa? Non lo sappiamo. Sarà per la solidarietà mostrata verso le persone rinchiuse nel CPR di Gradisca per non aver documenti regolari? Sarà per l'appoggio mostrato alla battaglia di Alfredo Cospito contro il 41 bis? Sarà per l'opposizione alla Lovovia proprio in questo sprint estivo in cui i tecnici si stanno presentando alle porte con le planimetrie per l'esproprio? L'essere sensibili, non indifferenti, all'orrore dei CPR, all'atrocità del 41 bis e alla devastazione ambientale, per noi non è una colpa. È piuttosto la nostra unica maniera di vivere umanamente, nonostante l'atrofia che spesso percepiamo attorno. Preoccupa però, per l'ennesima volta quest'anno, la sproporzione delle azioni di procure e questure. Sembra il tentativo non tanto di reprimere episodi specifici, quanto di affogare chi prova a rimanere a galla in quella melma di individualismo e controllo che ci circonda. Vi ricordo che stiamo leggendo il comunicato della Buriana sul ritrovamento di una microspia dentro l'automobile di un compagno. Qualcuno diceva che una società ingiusta ha sempre bisogno di reprimere dei criminali per legittimarsi. La soglia sopra la quale qualcuno diventa tale la determina però la società stessa. Nei periodi di maggior paura a reagire, anche solo l'avere una certa idea può diventare sufficiente. La mente ci corre veloce a Perugia e a Potenza, dove negli ultimi mesi sono state aperte delle indagini per 270 bis, associazione terroristica, per aver mostrato pubblicamente appoggio alla lotta intrapresa da Alfredo Cospito contro il 41 bis, in un caso per uno striscione, o a Bologna e Rovereto, dove è stata aperta un'indagine analoga contro, nella quale un cassonetto in fiamme è considerato come un attentato. Allora, unico rimedio che ci pare necessario, l'unico rimedio che ci pare venga messo in campo è quello che esiste già: reagire collettivamente all'intollerabile sensazione di avere un lager per persone, migranti, aggredisca, al pensiero che mentre guardiamo il cielo qualcuno boccheggia sotto tortura bianca in 41 bis a Tolmezzo, all'imposizione vorace e prepotente di una maxi opera nel bosco Bovedo. Reagire collettivamente alla chiusura dei consultori a Trieste, all'espansione della SIOT a Paluzza, alla violenza di genere e al clima di guerra che avanza. Reagire, e in questo modo non avranno abbastanza microspie e orecchie per tenerci sotto controllo, e tutte saremo più felici e un po' più umane. Cosa dire? È un comunicato che ha girato abbastanza, insomma, sui blog di controinformazione così nazionali, sì, in Italia. Speriamo che si diffonda molto, insomma, in maniera ampia questo comunicato, perché davvero non deve rimanere così isolato chi ha subito questa invasione della propria situazione quotidiana. E cosa dire ancora? È difficile, nel senso che agosto un po' è un periodo un po' svantaggioso per creare così tenere in piedi un filo, ecco, una continuità tra le varie cose che succedono, ma non so, almeno l'invito che facciamo noi, insomma, è tenere a mente queste cose molto gravi che stanno succedendo dalle nostre parti, come anche in altre parti d'Italia, e farne tesoro per ritornare alla carica un po' più compatti sicuramente questo autunno. Facciamo partire una canzone dei Lud che si intitola A colpi di mazza, e il riferimento non è assolutamente casuale. Eccoci di nuovo qui in diretta dagli studi del Radio Onde Furlane che ci ospita come ogni giovedì. Siamo a Zarin Magnetics per questi brevi aggiornamenti di attualità sulla repressione in corso. E un altro comunicato che abbiamo selezionato, secondo noi merita di essere così diffuso, è uscito qualche giorno fa, 29 luglio, e riguarda la situazione in Sicilia. È un comunicato pubblicato da Scirocco Madoni, un blog sul quale si trovano le cose molto interessanti. Vado a leggervi il comunicato. Guerra e repressione, solidarietà ad Antudo e a tutti i compagni e compagne inquisiti e inquisite negli ultimi mesi. L'ingiustizia è la più grande istigazione a delinquere. Intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale. Era una citazione con cui inizia l'articolo, che prosegue così. In queste poche righe sta racchiuso il colpo di genio che l'intelligenza repressiva ha elaborato negli ultimi decenni. Grazie al lavoro degli instancabili giuristi con l'elmetto, necessario al sistema quanto lo sono gli enti di ricerca sui sistemi d'arma, la vaghezza della nozione di terrorismo è stata completamente assunta dalla lingua dello Stato per poter essere impiegata come arma contro i suoi nemici. Sente intimidire la popolazione o le popolazioni è una prerogativa morale e materiale di ogni Stato, e quindi senza effetti giuridici, visto che è inimmaginabile uno Stato che persegua se stesso. Rimane a moralizzare l'azione repressiva la seconda parte del periodo. Scompare dall'orizzonte dei sacerdoti del diritto la violenza strutturale, le migliaia di morti annue prodotte da frontiere, carceri, lavoro, inquinamento, nocività. Scompaiono le carnificine perpetrate dagli eserciti e gli orizzonti attuali di terza guerra mondiale, con corredo di olocausto nucleare. Mostro è in questo bel mondo chi pensa di opporsi e pensa di farlo non solo platonicamente, ma agendo contro le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, a dimostrare che niente, neanche il rapporto tra significati e significanti, resta fuori dalla guerra sociale. In queste settimane stanno fioccando le inchieste per associazioni con finalità di terrorismo verso compagni e compagne che hanno lottato al fianco di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. In Sicilia le case di 6 compagni e compagni di Antudo sono state perquisite con l'accusa di istigazione a delinquere e di atto con finalità di terrorismo 280 bis. Queste accuse si riferiscono tanto alla pubblicazione del video di un attacco a una sede di Leonardo S.P.A. in Sicilia e al testo che l'accompagnava, istigazione a delinquere, quanto all'azione di attacco in sé 280 bis. Se una cosa vigliacca e schifosa come la repressione può avere un merito, è che nel farla lo Stato parla chiaro. Il carcere, il 41 bis, Leonardo S.P.A. e tutto l'apparato tecnico, tecno-militare carcerario sono strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali dello Stato e dell'organizzazione sociale in attuale traghettamento verso l'utopia del controllo totale, dalla guerra all'intelligenza artificiale, dalla collaborazione nella colonizzazione sottomarina con reti di cablaggio internet alla robotica e al 5G, Per Leonardo S.P.A. non ha alcun senso la distinzione tra militare e civile, e scompare anche la distinzione tra statuale e capitalistico. Quanto a noi, oltre a dare la più calorosa e sincera solidarietà alle inquisite e inquisiti, ci preme ribadire un concetto che ci è molto caro, a prescindere. Stiamo leggendo, ve lo ricordo, un comunicato sulla repressione in Sicilia relativa alle azioni in solidarietà con Alfredo Cospito. Quanto a noi, oltre a dare la più calorosa e sincera solidarietà alle inquisite e inquisiti, ci preme ribadire un concetto che ci è molto caro. A prescindere da chi quell'azione l'abbia realizzata, essa va difesa, dichiarata giusta, rivendicata, non in nome di un'organizzazione, ma in nome dell'appartenenza sociale e umana all'enorme anonima schiera degli oppressi, dei bombardati, dei morti che diventano statistica. Quell'azione, che per loro è terrorismo, è per noi fonte di incoraggiamento, è un atto di dignità esemplare. Loro hanno i codici, noi abbiamo la nostra memoria di oppressi, dalla colonizzazione di ieri all'estrattivismo e alle guerre di oggi. Lo Stato è il più grande produttore di terrore. E quindi si conclude con una serie di appelli: solidarietà a tutti i compagni e le compagne indagate nei recenti procedimenti, solidarietà Alfredo, Anna, Juan, Zach, Pasca, Rupert, Davide e a tutti i rinchiusi, ristretti, braccati dalla legge, solidarietà a Domenico Porcelli in sciopero della fame da 5 mesi contro la morte in vita del 41 bis, solidarietà alle popolazioni e agli individui colpiti dagli incendi devastanti. Il problema non è il fuoco, è la miscela tra il fuoco e l'etica assassina di una società basata sul profitto e sulla sopraffazione. Alcune siciliane e siciliani contro lo Stato e i suoi tentacoli. È un comunicato che noi abbiamo apprezzato, appunto perché fa questa digressione sul concetto di terrore che viene completamente eliminato cioè il terrore reale delle strutture del dominio e dei padroni e di chi opprime, insomma, della controparte. Quello viene completamente diventa un fantasma, diventa invisibile, diventa irreale, mentre invece viene così, viene verbalizzato esclusivamente quella che è la tensione a opporsi a questo, a questa sì, diffusa e incessante persecuzione, insomma, di quotidiana, che sì, appunto, che spazia dal lavoro biocida, dalle nocività, dall'inquinamento, dalle carceri, dalla tecnologia, le frontiere che ammazzano, eccetera, insomma, ecco, tutto qua. È interessante veramente questo comunicato, e solidarietà anche per il nostro picco, insomma, anche da questi microfoni. settimana. Allora, finora non c'era la voce, quindi rifaccio i saluti. Appunto, salutavo tutte le compagne e i compagni in ascolto. Zerdis Magnetics, Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. E vabbè, dopo così gli aggiornamenti, dopo anche aver dato spazio a questo nuovo gioco di guardie e ladri, appunto, che gli sbirri fanno, gioco nel quale fanno tutte e due le parti. Appunto, abbiamo visto quello che è successo a Trieste e continuiamo un po' a parlare della militarizzazione della società, cioè della penetrazione della cultura militare, ma anche della, direi proprio, della mentalità di guerra all'interno della società. Ne avevamo già parlato la scorsa settimana, avevamo parlato del nazionale di rugby, appunto questi alpini che insieme a questi atleti fanno i loro giochi di guerra, appunto. Avevamo parlato di questi progetti preoccupanti, progetti che tra l'altro una cooperativa sociale friulana porta in giro per l'Italia per intercettare la radicalizzazione così degli studenti e quindi mettere in atto una forma di potere soft, di diciamo repressione soft, propedeutica a una repressione poi appunto poliziesca in caso di bisogno. E oggi continuiamo appunto a parlare quindi di questa penetrazione del militare nel civile, per usare queste parole, attraverso alcuni spunti che vengono da un opuscolo che si intitola La transizione alla guerra in casa. E leggendo appunto, così si definisce questo opuscolo, opuscolo sul tema della transizione energetica, digitale e logistica dell'esercito italiano e di parte delle sue infrastrutture. Allora, l'opuscolo è molto analitico, analizza il percorso attraverso il quale il sistema militare comincia ad occuparsi, anzi a preoccuparsi, della buona salute e sicurezza delle infrastrutture energetiche, e cioè del tema dell'approvvigionamento energetico e della sua sicurezza e stabilità. Lo fa, analizza questo percorso, diciamo, del sistema militare, risalendo fino al summit della NATO del 2006 a Riga in Lettonia, poi a quello del 2010 a Lisbona, dove viene esplicitata questa occupazione, preoccupazione. Allora, dicevano così questi qua della NATO nel 2010: l'importanza critica di una stabile e affidabile fornitura energetica, della diversificazione degli approvvigionamenti, dei fornitori e delle risorse energetiche e l'interconnessione delle reti energetiche, e in modo ancor più chiaro come i principali vincoli ambientali e di risorse, inclusi i rischi sanitari, il cambiamento climatico, la scarsità d'acqua e i crescenti bisogni energetici, determineranno la futura sicurezza in aree di interesse per la NATO e avranno il potenziale per influenzare significativamente la pianificazione e le operazioni della NATO. Quindi venivano già evocati, diciamo, nel 2006 questo discorso dei rischi connessi al cambiamento climatico e anche ai rischi sanitari, quindi evocavano già delle cose di questo tipo. E da questa preoccupazione si sviluppa poi l'obiettivo della riduzione dell'impronta ecologica delle operazioni militari e del miglioramento della resilienza della NATO tramite l'investimento in tecnologie verdi. E appunto questa necessità, diciamo, obiettivo della riduzione delle impronte ecologiche, quindi di rendere green, aiuto, gli insediamenti militari, viene proprio dichiarato dal segretario generale Jens Stoltenberg, nel documento NATO 2030, United for a New Era. E vediamo che cosa ci dice. Vado a leggere un pezzo dall'opuscolo, insomma, che su questo argomento: si può immaginare come una forza militare che cominci già oggi a porre le basi dello sfruttamento delle cosiddette energie rinnovabili, attraverso ad esempio la realizzazione di infrastrutture completamente autosufficienti dal punto di vista energetico, potrebbe nell'arco di alcuni anni arrivare ad ottenere sul campo di battaglia un vantaggio significativo su ogni avversario, che continua invece ad affidarsi ai soli combustibili fossili per alimentare la propria macchina bellica. Come sembra indicare il caso italiano, una cresciuta autonomia energetica si orienta anche alla preparazione ad un eventuale futuro scenario bellico interno e al contempo nella direzione della predisposizione dei necessari appoggi e del necessario appoggio a favore della popolazione, da ottenersi tramite aggiustamenti mirati non solo all'immagine ma soprattutto alla necessaria maggiore integrazione della presenza fisica delle forze armate nei territori. Parlando di una maggiore integrazione della presenza fisica delle forze armate nei territori, si arriva in qualche misura al dunque, cioè al discorso del coinvolgimento della popolazione civile. E si parla in questo opuscolo, insomma, ci sono diversi documenti citati, dove si parla appunto di caserme, non più del superamento, diciamo, del discorso dei muri, di caserme come luoghi chiusi, diciamo invalicabili, all'interno dei quali non si sa quello che succede, ma invece di aprire, diciamo, di integrare questi luoghi all'interno appunto della società. E farlo anche creando, diciamo, all'interno delle caserme delle infrastrutture che sono indispensabili anche al resto della società, insomma alla società civile, come appunto le infrastrutture energetiche, che però chiaramente sono principalmente finalizzate agli apparati militari, che sono risaputamente energivori. Un'altra faccenda di questo coinvolgimento, diciamo, di questa penetrazione all'interno della società civile relativamente all'approvvigionamento energetico, e poi insomma in altri punti dell'opuscolo viene, poi magari cerco anche dove, perché mi sono tirata giù, dove lo dice, cioè questo discorso che sempre di più gli approvvigionamenti energetici e il controllo sulla sicurezza, eccetera, avvengono attraverso dispositivi informatici. E questa cosa è da un lato un punto di forza, dall'altro lato anche un punto di estrema vulnerabilità, perché sta anche in questa cosa qui la fragilità. Quindi sempre di più si parla di cybersicurezza proprio per questa ragione qua. Però in questo modo, diciamo, penetrando l'armamentario militare all'interno della società, questa cybersicurezza viene applicata anche alla società civile, insomma, alle persone che non sono militari e ai luoghi di vita che non sono militari. ma in questo modo, dietro diciamo una specie di chimera di farneticazione sulla sicurezza delle persone, le persone invece vengono trasformate in obiettivi militari, perché se il militare permea e si infiltra diciamo nella società non militare, vuol dire che tutta la società diventa un obiettivo militare per un eventuale nemico. E questo difatti questo, cioè la distinzione diciamo tra militare e civile è sempre più aleatoria. Poi comunque, pensando sempre a questo discorso della penetrazione militare nella società, mi viene in mente, ci pensavo in questi giorni, ne abbiamo già parlato a Zardins, ad esempio anche qua a Udine, della cittadella della sicurezza. Come si diceva, caserma Cavarzerani, devono farne questa miliardaria cittadella della sicurezza per le forze dell'ordine, ma hanno pensato anche a un parco super figo da aprire alla popolazione, attrezzato appunto, quindi anche qui di nuovo la questione dello sport, delle aree verdi, e poi mi viene in mente anche Via Spalato, perché anche la ristrutturazione di Via Spalato prevede di costruire, sì, di adibire, allestire un teatro all'interno del carcere dove portare le persone che non sono prigioniere a vedere gli spettacoli. Quindi questa cosa assurda per cui un luogo di morte, un luogo di repressione, un luogo di annientamento delle soggettività viene normalizzato in qualche maniera, per cui qualcuno può entrare dentro a vedere uno spettacolo teatrale, chiaramente non dentro le celle ma dentro un'area culturalmente, esteticamente, architettonicamente non addestrata ma allestita, e questa cosa viene anche spacciata come una sorta di democratizzazione, di apertura diciamo dell'istituzione totale o delle istituzioni repressive nel caso della cittadella della sicurezza, e anche nel caso dell'esercito, delle strutture, delle caserme diciamo di nuova generazione, e appunto viene spacciato questa operazione come una cosa di apertura, di maggior democrazia. Leggo ancora un piccolo pezzo, poi magari dell'opuscolo appunto, poi magari mettiamo facciamo una pausa musicale e riprendiamo. Allora, 12 febbraio 2019 alla Casa dell'Aviatore di Roma si era tenuta la conferenza del CESMA, Centro Studi Militari dell'Aeronautica, ed in un intervento dal titolo Le sfide nel settore della difesa per la sicurezza energetica approccio onnicomprensivo e multilivello della strategia italiana, l'allora direttore Francesco Noto delineava l'agenda del suo ministero in materia. Tra le azioni strategiche nella cornice della SPE figuravano anche la ricerca e lo sviluppo tecnologico per gli ambiti dual use in collaborazione con il mondo accademico, istituti di ricerca e comparto industriale e l'individuazione delle infrastrutture critiche energetiche della difesa. E poi non poteva mancare il contributo dell'azienda ammiraglia del militarismo italiano Leonardo. Il 9 febbraio 2021, infatti, poco prima dell'approvazione del PNRR, il suo amministratore delegato Alessandro Profumo aveva tenuto un'audizione alla Camera presentando il documento Leonardo per il rilancio del Paese, fortemente sbilanciato a favore dello sviluppo e della messa in sicurezza dell'infrastruttura digitale negli ambiti civili, sanità, energia, pubblica amministrazione e logistica. E siamo appunto nel 2021, non ci si può dimenticare che quindi siamo nell'anno centrale, diciamo, della gestione militarizzata e repressiva della cosiddetta pandemia. Siamo in ascolto dei Riot Squad, la canzone In This World. Prima abbiamo ascoltato invece delle canzoni tratte dall'album Nessuna speranza, nessuna paura dei Contropotere, e prima ancora invece i Flick Dans La Tête, che è un gruppo piemontese. E continuiamo ad ascoltarci i Riot Squad di Ferrara. Sì, e continuiamo allora un po' a così prendere spunto da questo opuscolo, la transizione alla guerra in casa, e per capire un po' meglio che cosa sono questi distretti militari smart, cioè che smart sarebbe, vorrebbe dire intelligente, ma vabbè, e che però preludono, diciamo, a una società caserma sempre più smart. Smart, a vedere come i nuovi distretti militari intelligenti sono stati pensati, di quali tecnologie dovrebbero essere dotati per aderire agli scopi che si prefiggono, al loro collocarsi quasi sempre all'interno dei contesti urbani di riferimento, viene da pensare che un ulteriore obiettivo cui saranno funzionali sarà quello di costituire vere e proprie teste di ponte, pietre miliari delle città smart in cui le classi capitaliste vorrebbero riconfigurare piccoli e grandi spazi urbani a fini di profitto, sorveglianza, repressione. In questo senso essi non sono tanto l'applicazione dei concetti della smart city al comparto della difesa, quanto invece piccole enclavi da cui dovrebbe irradiare la smartizzazione di tutto il territorio circostante, almeno di quello che nel breve medio periodo potrà supportare lo sviluppo delle tecnologie necessarie a questa trasformazione. D'altro canto, e non si scopre certo l'acqua calda, l'ampio spettro di tecnologie che dovrebbero permettere la digitalizzazione pressoché totale degli spazi urbani e della vita delle persone che in essi abitano provengono esattamente dalla ricerca militare, e se c'è un comparto dove almeno alcune di esse sono già di uso collaudato e comune, è proprio quello bellico. Il distretto militare intelligente, e il caso di Castro Pretorio a Roma lo esemplifica bene, si mostra infatti come una città intelligente in miniatura, costellato di sensori, reti e flussi di dati di ogni tipo, di onnipresenti sistemi di sorveglianza, il tutto gestito e connesso dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale, dall'internet delle cose, dal machine learning e dalle indispensabili infrastrutture digitali energetiche. Come è già stato opportunamente notato, le linee guida di questa trasformazione di solito sono espresse tramite parole chiave, slogan, più che concetti, che servono al tempo stesso a indorare la pillola, a nascondere le reali finalità di tali progetti, illudendo l'abitante cliente di stare agendo per il suo bene. Anche i militari lo hanno capito, e come l'inferno green della città digitale si ammanta di maggiore sicurezza da ogni forma di perturbazione del comfort, dell'automazione, di gratuità dei servizi accessibili a tutti i registrati, di robot per l'assistenza degli anziani, di gestione intelligente dell'energia e dell'acqua, di resilienza al cambiamento climatico, della assidua partecipazione del suddito comune alla cogestione del suo sfruttamento e via dicendo, l'inferno della futura comunità caserma, in grado di farsi trovare pronta alla guerra che verrà, deve vestirsi di inclusione, riqualificazione, integrazione del tessuto sociale, educazione nelle scuole, asili e kermesse, dove iniziare fin da subito ad apprendere quali sono i valori fondanti del cittadino soldato del futuro. Non dimentichiamo mai che in qualunque rivoluzione ci sono tre quarti di fantasia e un quarto soltanto di realtà, o in altri termini, perché ti vedo qui aggrottare le sopracciglia leggendo queste righe. La vita, amico mio, è sempre più grande della dottrina. Non si farà mai entrare la vita in una dottrina, fosse pure una dottrina universale come la nostra dottrina anarchica. E queste erano parole di Bakunin. E allora, lo scorso fine settimana, così tra compagni e compagni, ci siamo incontrate per così parlare a ruota libera di Max Stirner, l'unico e la sua proprietà. E così, da questa, da questa giornata, insomma, intensa, sono emerse tantissime cose, insomma, boh, io poi adesso magari dedicheremo magari anche una trasmissione anche più approfondita a Max Stirner, ma comunque personalmente mi sono venuti alla mente anzi due articoli che sono comparsi sul periodico anarchico Caligine, sul numero 2, che è relativo alla primavera estate 2021. Questi due articoli appunto diciamo parlavano e parlavano sull'idolo della razionalità, cioè sulla religione della razionalità, e per in qualche maniera demolire questo idolo. E allora, tra le varie cose che sono emerse, insomma, nella nostra così giornata di scambi stirneriani, è emerso il fatto che Stirner, qualcuno diceva, è riuscito veramente a fare fuori Dio, nel senso che con il suo pensiero è riuscito a far fuori Dio non solo nella sua deità, ma a far fuori la deità anche che l'uomo, e io aggiungo, e anche la donna, diciamo, trasferisce su di sé per così per essere, cioè, nell'illusione di mettersi al pari con Dio. E appunto Stirner quindi fa fuori Dio, però anche comprende, intuisce, diciamo, che Dio può ben trasferirsi armi e bagagli dal cielo alla terra, appunto. Nel caso, parlando di idolo della razionalità, possiamo dire che la fede in Dio diviene fede nella scienza e di conseguenza nella ragione. Ma appunto questo articolo, ma insomma questo contributo che si intitola L'idolo della razionalità, ci dice non è che buttiamo via del tutto la razionalità, la prendiamo e la buttiamo, no, però è importante cercare di mettere in discussione alcune categorie di pensiero e anche capire che queste categorie di pensiero hanno anche una funzione, diciamo, hanno una funzione nel senso che agiscono, spesso possono agire come freno, come motore morale ideologico rispetto ad esempio a un diverso approccio, una diversa apertura, insomma, delle altre nostre facoltà, dei nostri sensi, e possono appunto semplificare queste categorie, semplificare la complessità esperienziale del mondo e le potenzialità del nostro agire in interazione con esso. E ritorniamo, ritorniamo all'anarchia, alle anarchiche e agli anarchici. Allora, citando questo: la nostra tensione anarchica emana dalla nostra vitalità, da quel sentimento-sensazione per cui la vita che ci bolle dentro deve emergere. e viceversa. Ci sentiamo vivi perché ci rivoltiamo, perché siamo disposti a lasciare provvisoriamente il dominio delle parole, del pensiero e della riflessione, quello dell'applicazione razionale e della costruzione razionale delle nostre esistenze. E i compagni che hanno scritto, o le compagne, non so chi l'ha scritto, questi contributi comunque invitano anche a pensare pericolosamente. Ma andiamo avanti. Allora, intanto, sempre su questa riflessione relativamente all'idolo del razionalismo, della razionalità, del razionalismo, cioè, intanto viene messo in questo articolo, viene messo in luce il fatto che il razionalismo è una delle interpretazioni del mondo, viene partorito nell'Occidente moderno e, insomma, non è una cosa naturale, è una cosa che viene prodotta dall'uomo, quindi, e dico uomo perché comunque viene prodotta anche in un sistema in cui l'uomo come essere maschile, diciamo, dominava. E difatti il razionalismo, possiamo dire anche che è l'espressione del binomio razionale irrazionale, per cui si situano in due sfere, diciamo, separate e anche gerarchicamente differenziate: la ragione, l'intelletto, la logica, la scienza, la mente, e dall'altro lato invece il sentimento, l'emozione, l'istinto, la volontà, le passioni, l'immaginazione, lo spirito, il corpo. Quindi, dal lato gerarchicamente superiore, io mi spingo a dire l'uomo, dal lato gerarchicamente inferiore, cioè quello del corpo, delle passioni, dell'immaginazione, dell'istinto, la donna. Il razionalismo è la convinzione che la ragione umana sia lo strumento privilegiato e superiore di conoscenza del mondo. Poi, però, vediamo che, diciamo che con il progresso scientifico e tecnico-scientifico, questa cosa viene ancora più diventa ancora più pesante, diciamo. E difatti, diciamo che la scienza viene ad avere nella tecnologia il suo braccio armato. Sì, vado avanti, siamo un po' con i tempi un po' così, ma comunque, come sempre, non riesco mai a calcolare, vabbè, non importa. Allora, si diceva, il razionalismo è un modo di vedere il mondo, non è l'assoluto l'unico appunto modo di vedere il mondo, ma subisce una specie di naturalizzazione e quindi diventa, diciamo, non una tra le tante possibili interpretazioni del mondo, ma l'unica possibile, quella, diciamo, oggettivamente determinata, mentre quella soggettiva rimane occultata. Colei o colui che hanno steso questo contributo continua dicendo: la ragione tende sempre a voler cercare la soluzione su una via coerente e logica. Può funzionare in tutte le situazioni e problemi spiccioli, ma non è sufficiente per le grandi questioni decisive. è incapace di creare l'immagine, il senso, la profondità. Quando la via della ragione diventa un ostacolo e ad un certo punto lo diviene, allora la soluzione arriva nel modo più inatteso. Questo avviene perché la realtà che ci troviamo a interpretare è essenzialmente non lineare, complessa, caotica. Questo significa che essa non si può comunicare con un linguaggio logico o sequenziale unicamente, che per essere compresa richiede necessariamente l'utilizzo anche di altre facoltà. E quindi richiede il rifiuto della separazione fittizia tra le diverse sfere della nostra esistenza. Il nostro addomesticamento passa anche attraverso questa separazione e gerarchizzazione delle possibilità che abbiamo di comprendere e rapportarci alla realtà. E la successiva liquidazione di tutti quegli aspetti della nostra personalità che non sono funzionali all'ordine sociale dominante. Quindi il rifiuto del primato della ragione non è la stessa cosa del rifiuto della ragione. E per concludere per il momento, per oggi, ritornando all'anarchia, una domanda importante che dovremmo porci è: in che modo il mito razionalista influenza anche la teoria e le azioni anarchiche? Ad esempio nell'attenzione per gli aspetti tecnici della rivolta, io direi l'egemonia, diciamo, dell'attenzione negli aspetti tecnici della rivolta a scapito di quelli più viscerali, come se la ribellione fosse una questione di logica, calcolo e previsione. Quindi questa riflessione sull'idolo della razionalità ci mette in guardia da un anarchismo che si vuole ragionevole e oggettivo, che ha fede nella linearità della storia e del pensiero, anziché nella miscela esplosiva di sentimento e ragionamento che spinge il singolo all'azione, ma che spinge all'azione anche l'unione degli unici. Ci mostra come la fede nella ragione non sia altro che la continuazione della fede religiosa sotto altre forme, perché entrambe sottendono il bisogno di credere in qualcosa per scongiurare l'incerto, l'indeterminato, il caos, che sono parte fondamentale dell'esistenza. Play. Siamo all'ascolto di Body Bag dei No Means No, band statunitense. E questo CD, cioè le canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso, sono tratte da un CD che si chiama Live in Cuddly, e le canzoni sono state registrate live, dei concerti che hanno, in cui hanno suonato nel 1990 in Olanda. Allora, siamo davvero agli sgoccioli di questa puntata di giovedì 3 agosto qua in The Fessi in diretta dagli studi di Via Volturno di Radio Underfurlane a Udine e diffusi ovunque nel web e nell'etere, per il momento solo in provincia qui nel Friuli. Allora, vado a darvi, prima dei saluti, i contatti per riascoltare la trasmissione di stasera ed eventualmente riandare ad ascoltarvi qualche altra puntata di quelle passate dell'ultimo triennio. Allora, il nostro blog è semplicemente Zardins Magnetics Radio. .noblogs.org, lo trovate immediatamente sul motore di ricerca. Per contattarci direttamente come assemblea permanente contro il carcere Friuli e Trieste, abbiamo la mail di contatto liberetutti@autistiche.org. Dopodiché, chi si trova ristretto, chi è impedito appunto a appunto chi ci ascolta magari casualmente dalle carceri qui infami di via Spalato, o insomma si trova ai domiciliari o si trova in qualche comunità terapeutica o eventuali altre situazioni di restrizione, è costretto a scriverci con la penna per contattarci alla casella postale 120, indirizzando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121, il CAP, ripeto come di consueto, come si fa sempre, scrivete a Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34121 Trieste, per contattarci in maniera cartacea. Chi ci sta ascoltando il venerdì vuol dire che è collegato a Radiazione, la web radio che ci trasmette il venerdì appunto a partire dalle 17 nel pomeriggio. E infine i podcast li potete comodamente ascoltare anche da Telegram, dal nostro canale, che appunto il canale Telegram pubblico è Zardins, lo trovate a questo, insomma, digitando Zardins. E quindi per questa sera è tutto, un grazie a chi ci ha ascoltato, mandateci le vostre così critiche, ma anche contributi, anche riflessioni, anche considerazioni a questi contatti. Fatevi vivi, fatevi vive. E un saluto, un risentirci a giovedì prossimo, ci saremo, sarà il 10, ci saremo, a presto e ciao. We're brothers in arms until the end, your end. Ha ha, brother rat. A brother rat. Yeah, brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother my pal, he is my brother. I am one, he is the other. When the sun shines, he is my shadow. And when the moon is high, it's at his feet I lie. Never listen to what Slade says. I'll never listen to what Slade says.